sempre fumo così, effimero e così mortale. Come il fumo, così effimero e così mortale. Come il fumo, così effimero, così mortale. Siamo come il fumo, che sembra che scompare, ma mieta tanta morte. E ora siete sul mio altare, sul foglio come note. E agognate, sudate, impaurite, scappate. Ci avete amato come sangue buono, uno squalo. Ma saremo il vostro stesso sogno infranto se moriamo nel sempre. Quindi ricordate, siamo come il fumo che sembra che scompare, ma miete tanta morte. Ora siete sul mio altare, sul foglio come note. Agognate, sudate, impaurite, scappate. Ci avete amato come sangue buono, uno squalo. Ma saremo il vostro stesso sogno infranto se moriamo nel sempre. Quindi ricordate, come fumo così effimero, così mortale. Come fumo così effimero, così mortale. Noi siamo come Dante, scriviamo le nostre carte d'arte, perché un giorno verranno lettere in lettere ricordate, perché le nostre vite e arte riflette il dolore, la solitudine di un secolo, non solo le stupide feste. E non pensate che questa sia morte, perché questa è la dimensione che non capite. Odiate ed amate sì, ma rifiutate no. E noi siamo fuori da vite concrete, siamo come il fumo effimero che sbuffato poi scompare, ma che miete tanta morte. Come il fumo così effimero e così mortale. Come il fumo così effimero e così mortale. Come il fumo così effimero e così mortale. Siamo come il fumo, ti sembra che scompare, ma miete tanta morte. E ora siete sul mio altare, sul foglio come note. E agognate, sudate, impaurite, scappate. Ci avete amato come sangue buono, uno squalo. Ma saremo il vostro sesso, sogno infranto se moriamo nel sempre. Quindi ricordate, come il fumo così effimero e così mortale. Come il fumo così effimero e così mortale. Come il fumo così effimero e così mortale. Noi siamo come Dante, scriviamo le nostre carte d'arte, perché un giorno verranno lettere illette e ricordate, perché le nostre voci e arte riflettono il dolore, la solitudine di un secolo, non solo stupide feste. E non pensate che questa sia morte, perché questa è una dimensione che non capite. Odiate ed amate sì, ma rifiutate no. E noi siamo fuori da vite concrete, siamo come il fumo effimero che sbuffato può scompare, ma che miete tanta morte. Come il fumo così effimero e così mortale. Come il fumo così effimero e così mortale. E non c'è prima o dopo con la verità, c'è solo l'ipocrisia che mi dà. Sentire sopra me l'aldilà e sotto me l'inferno che verrà. Qualcuno che mi spingerà e non so ancora che direzione sarà. Come il fumo così effimero e così mortale. Come il fumo così effimero e così mortale. Come il fumo così effimero e così mortale. Verrà forse l'aurora di ogni nostro giorno atteso finora. Quale sarà la mia signora? Parlano, parlano ora, ma poi oggi torniamo noi, vola. Come il fumo così effimero, così mortale. Come il fumo così effimero, così mortale. Come il fumo così effimero, così mortale.